e sono qua come scheggia impazzita di un progetto che si chiama Orda. Oh, ok. Bellissima presentazione. Quindi, e queste cose, ho detto prima, mi è scappato di dire che siamo connessi. Sì. In realtà queste due voci sono qui per parlare di un evento che in prima mondiale galattica avrà luogo qui a Bologna, nello spazio delle Serre, a Kilowatt, e si chiama La Cura il Festival. Dico bene? Non solo La Cura il Festival, connessi, complessi, indisciplinati, dall'8 al 10 di luglio. Ecco, perfetto. Quindi mi hai sgamato che avevo preso da lì la parola connessi. Avevo cercato di copiare di nascosto invece. E sì, perché in realtà, chissà, magari forse non tutti, molti nel mondo conoscono questo La Cura, la-cura.it, che è un sito, ma più che un sito è qualcosa di più, come lo potremmo dire? È un luogo. Ecco. Un luogo, ed è un luogo principalmente di relazioni, è il posto dove è partito tutto nel 2012, però abbiamo un altro super mega ospite, mega spaziale, Cox o qualcosa. Che brava, ci stai arrivando. Sta studiando, ci sta arrivando. Sì, hanno cercato di istruirmi prima, ancora non sono entrata perfettamente nel linguaggio, che è Salvatore Iaconesi, che è anche il mio compagno di vita, di performance, di vita, di lavoro, diciamo di vita è una buonissima definizione. E adesso lui è alle Serre dei Giardini Margherita, stiamo montando insieme a tutti gli altri il festival, perché ci sono tante installazioni, performance, tutte le cose che immaginate che si facciano prima di un festival, e generosamente connesso, complesso e indisciplinato moltissimo. No, ma allora arriverà. Quindi svegliamo l'arcano: noi stiamo parlando di un festival di 3 giorni che si ispira alla performance globale, che si chiama la-cura.it, e la nostra, questa puntata, la 147esima puntata di Coxo Spaziale, è felicissima di poter parlare ai coxonauti di questo evento, che è diventata una performance globale. E nel capire il perché e il per come, poi avremo la voce direttamente al telefono di Salvatore Iaconesi, detto Sal, con nome biblico, è autorevolissimo per questo. Subito dopo un brano che mi serve per chiamare, perché ancora vabbè. E questo, vogliamo anticipare come nasce questo percorso? Sì, assolutamente, da il percorso del festival o il percorso della cura? Perché della cura, della performance. Ah, della performance. Una piccola anticipazione: è un cancro al cervello che è diventato un'opera d'arte. Ecco, e allora io metto un brano, metto questo di John De Leo. Continua, cade, ma continua, caduta libera, cade di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale, continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Can, non lontano, e continua in te, nelle ossa, nel sangue. Gira il sole, danza da sé, e da sé, a sé, e plie. Continua, lingua contro lingua, spinta dalla sete, per raccontare ti salverà Shahrazad. E continua in te, di bocca in bocca cresce, sale, continua a ripetere, gira il sole e danza. Da sé, e da sé, e gira il sole e danza da sé, e da sé, a sé, gira il sole e danza con te, e da sé, a sé, gira il sole e danza da sé. La 147esima puntata di Coxo Spaziale ha come super mega galattici ospiti in studio Oriana e Tommaso. Io di tanto sparisco, ma è perché l'abbiamo già scoperto l'altra volta. Sì. Parte del mixer è già nell'altra sede. Ah, fantastico. Ha già cominciato a traslocare. Perché Città Fucico sta per trasferirsi. Sì, cambiamo sede, andiamo in un fantasmagorico nuovo studio che è dall'altra parte della città. Molto più figo di questo, molto più figo sicuramente. Di questo. Sicuramente. Sicuramente, non l'abbiamo visto, sì, ma sì, sicuramente se lo sarà. E come, chi è, caro Luca, il soggetto principale del... A chi è dedicata la... A cosa è dedicata la 147esima puntata di Coxo Spaziale? Beh, la cura, il festival. E chi abbiamo in linea al telefono, sempre che non abbia già riagganciato e sia scappato? Salvatore! Eccolo! Salvatore Iaconesi, ciao! Ciao! Cosa stavi facendo lì ai giardini, alle serre? Sono appena sceso da un tavolino. Interessante, mi sa che toccherà anche a me nei prossimi. Assolutamente, perché stavamo aggiustando una delle installazioni e quindi mi sono trovato immerso nei cavi di rete, diciamo, a trovare quello giusto. Però adesso sono sceso. Ma una delle installazioni che era alle serre oppure nella villa, perché il vostro festival ha invaso tutti i giardini. Questa si tratta di una delle installazioni delle serre, che è di Roberto Fazio, che è bellissima e ne sono anche molto fiero. Perché è un'installazione che prende, voi sapete che abbiamo con Oriana abbiamo anche un altro progetto che si chiama Human Ecosystems a Bologna, questa installazione prende le emozioni della città come, diciamo, registrate da Human Ecosystems attraverso i social network e le trasforma in dei pattern visivi realizzati in maniera fisica. Quindi è molto bello perché uno può guardare questa installazione, messo che inizia a funzionare la rete, e vedere, diciamo, materializzarsi davanti a sé le emozioni della città. Bene, interessante, molto. Non vedo l'ora che sia domani. A che ora è che aprite i cancelli? Non me lo ricordo. No, è vero. Confermo, la persona dei calendari sono io, alle 18. Alle 18 domani sera, tutti in prima fila, pronti via per le installazioni e poi anche le performance e i talk. Insomma, c'è di tutto in questa La Cura, il festival. Però prima di tutto facciamo un passo indietro, perché abbiamo anticipato ai nostri coxo ascoltatori che tu ci avresti spiegato come è successo che da un fatto che avrebbe messo in ginocchio la maggior parte delle persone, l'avrebbe rinchiuse a chiudersi in loro stessi e a non lo so come reagire, insomma è una cosa abbastanza tragica, mi sento anche confusa io a parlarne qui a Coxo Spaziale, insomma, e da una cosa del genere creare una performance globale. Guarda, è stata una necessità. Perché vuoi per indole, vuoi per trascorsi diciamo, personali, politici, filosofici, ma anche diciamo per la storia, insomma, diciamo, mi sono trovato sempre ad essere immerso in discorsi che riguardano la necessità, insomma, dello spazio liberato, quindi della liberazione e della possibilità di autodeterminazione ed autoespressione. È bellissimo vedere Oriana qui tutta sorriso che dice sì sì sì, è lui, è lui, lo riconosco, è lui, non abbiamo preso il numero sbagliato. Penso che avevamo preso il numero sbagliato e rispondevo un altro. Beh, sì, questa l'ha cavata bene, eh? Non è possibile perché noi abbiamo un solo cellulare. È vero, questa è una cosa che abbiamo scoperto. Io non ce l'ho con me, quindi per forza. Fantastico. E quindi diciamo questa cosa in realtà è stata una necessità, perché quando tu ti ammali inizi a avere esperienza diretta del fatto che purtroppo la medicina, con tutto il bene che fa, ha una grande pecca, no? Quella della medicina attuale, ed è il fatto che cura nella separazione, no? Per esempio Bogoldi descriveva quattro tipi di separazione, no, della medicina, per classificazione, no? Tu sei malato, tu sei sano, tu sei abile, tu sei disabile, eccetera, tu sei matto, tu sei no, di cui sappiamo molto bene, nel corpo, il medico del polmone che non parla col medico del fegato. È meraviglioso anche come ne parli, perché è la tragica realtà che ci trova tutti quanti insieme riuniti in questo essere fantastico che è il paziente, no? Esatto, esatto. Quindi questa entità amministrativo burocratica che nulla o pochissimo ha a che vedere, no, con l'essere umano, vive nella separazione, no? È di fatto separato da tutto e anche da se stesso, no? Perché io addirittura mi potrei convincere di essere il paziente, no? Invece di essere un essere umano. E quindi per me è stata una necessità, e per esempio solo uscendo dall'ospedale, per esempio, ho potuto iniziare a reimpostare il discorso con tutta la medicina e con tutta la società, perché la tensione principale è stata quella di portare la medicina fuori, la medicina e la malattia, quindi fuori dall'ospedale e in mezzo alla società. Ok, ma aspetta. In che modo? In che modo? Perfetto. Quindi cosa ho fatto? Tutto inizia da un aneddoto molto semplice, perché un giorno mentre ero nell'ospedale ho chiesto le immagini del mio cancro a un'infermiera, no? E gliel'ho chieste perché fondamentalmente ci volevo parlare col mio cancro, no? Vorrei vedere la faccia che avrà fatto l'infermiera quando le hai fatto una richiesta del genere. Mi ha guardato un po' come un alieno, no? Perché poi, e poi in realtà, scavando un po', è venuto fuori che era veramente problematico avere le immagini del mio cancro per motivi di privacy, nonostante fosse privacy il mio da cancro. Te stesso. Sì, no, è pazzesco. Esatto. Per motivi legali, cosa succede se gli diamo le immagini del suo cancro e poi non è un cancro e questo ci denuncia? Per motivi economici, ma deve pagare un ticket per avere un'immagine del suo cancro? Chi lo sa, perché non ce l'hanno mai chiesto, quindi non era imprevisto, eccetera eccetera eccetera. Quindi per esempio l'unico modo in cui ho potuto avere l'immagine del mio cancro era uscendo dall'ospedale, no? Quindi diciamo è stato evidente che quelle immagini, nonostante fossero le immagini del mio corpo, non erano per me, quindi non erano per l'essere umano Salvatore Iaconesi, erano per il paziente numero 35261, che non sono io, ovviamente, curato dai dottori di competenza, esatto, no? Quindi e quindi questa è stata una cosa incredibile. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo estratto queste immagini dai linguaggi e dai metodi e dalle procedure dell'ospedale, della medicina, eccetera eccetera, e l'abbiamo messe in mezzo alla società. Quindi abbiamo trasformato questi dati medici, le immagini, i dati clinici, eccetera eccetera, nella metafora della riappropriazione dell'umanità, quindi, no? Quindi l'uscire dal paziente e ritornare ad essere essere umano. Come si fa? diciamo, abbiamo usato un approccio metaforico, quindi un approccio simbolico, usando i dati. Quindi abbiamo estratto i dati dalla procedura, no, dal protocollo, dal processo, no, eccetera, eccetera, e li abbiamo messi dentro la società trasformandoli. E poi abbiamo fatto un video in cui chiedevamo a tutti, che fossero artisti, designer, ingegneri, fruttivendoli, casalinghi o casalinghe, bambini o anziani, eccetera, eccetera, come potevano partecipare alla mia cura, no? Ma quindi proprio riportando tutti, a tutti gli effetti la malattia nella società. Quindi proprio tutti. E così è successa, è l'inizio, il fulcro della performance globale, che ha avuto, ha formato tantissime connessioni, tantissime relazioni, tantissimi incontri, fino a dilagare. Ed infatti quello, così è successo anche per il festival, che all'inizio doveva essere una lettura del libro che è stato pubblicato su questo vostro percorso, su questo performativo, ed in realtà è diventato un festival che proprio trabocca di partecipanti, di realtà e di cose che anche difficilmente si sarebbero potute mettere in connessione. Assolutamente, ed è una cosa bellissima, perché io sono molto felice, perché è proprio la materializzazione perfetta di quello che è avvenuto, quindi della continuazione della performance, perché ogni cosa che è nel festival è allo stesso tempo un'opera d'arte, un'esplorazione scientifica, un'esplorazione sui diritti o sulle leggi, un'analisi sul cibo e sul consumo e su come, diciamo, tutte queste cose sono collegate a tutte le altre, e così via. Quindi è una cosa, secondo me, molto importante. Ok, c'è un intervento dallo studio. Sì, infatti. è vero, ci ha veramente riempito di gioia, perché questa storia, come abbiamo detto all'inizio, prende l'avvio nel 2012. Poi siete molto intergalattici, se ve lo ricordate era l'anno dei Maya intergalattici, portami via. No, sì, per noi, io lo dico sempre, erano arrivati veramente i Maya, sono un po' in anticipo perché era successo ad agosto. E in realtà quando è avvenuta la performance e ha creato questo spazio, la possibilità di questo spazio di espressione, che significato aveva riportare in vita la cura? Lo abbiamo fatto in circa un anno, scrivendo il libro che è uscito da poco, un libro che non abbiamo mai concepito come un libro, ma come una cassetta per gli attrezzi che consentisse ad altri di mettere in atto la propria performance. Ne parlavamo prima, sì, proprio qui in studio, su, e ne parleremo ancora insieme a Lorda. Ok, c'è un altro intervento? Scusate. C'è l'intervento del co-conduttore. Sì. Mi avete dato una suggestione bellissima, non so. Io ho recentemente visto, perché è recentemente uscito, un film di un regista famosissimo, forse il più famoso insieme a Wim Wenders, regista tedesco, che è Werner Herzog, vi prego di notare la pronuncia veramente perfetta, che è un documentario, il documentario si intitola Lo and Behold, è stato presentato al Biograph Film Festival qui a Bologna, al Sundance Film Festival di Robert Redford, eccetera, eccetera, eccetera, insomma è un film, è di quest'anno, e fra le tante si occupa, direte, di internet. In teoria dovrebbe essere la storia di internet, così ce lo spacciano. Poi quando andiamo a vederlo, questo film ci parla di tante cose. Fra le tante testimonianze c'è quella di uno scienziato di un'università americana, la Carnegie Mellon University. Sì. Della conosci? Sì. Ma bene, perché effettivamente è considerata una delle più rinomate università americane per la computer science. È più costose. È più costose, ma ne sapete più di me. Ma è bene sottolinearlo. No, vabbè, come sempre, insomma, nel sistema americano credo funzioni così. Il ricercatore di questa università spiegava come, nella loro ricerca, spiegava lui molto meglio di quanto possa fare io adesso, ma ci provo. Fondamentalmente si mette online, hanno creato un gioco. Il gioco di una molecola di DNA, della struttura di una molecola di DNA, oppure della struttura di una molecola di una proteina. Gli utenti, che può essere anche un bambino di 11 anni, c'è un bambino di 11 anni che ha ricreato la struttura di una proteina, perché hanno creato fondamentalmente un gioco in cui gli utenti appunto partecipano, e partecipano anche dei computer, hanno messo, come dire, dei computer a competere con gli umani. Dopo un po' di tempo hanno visto che gli umani imparavano in maniera creativa a giocare con la struttura della molecola, pur non avendo ovviamente competenze di genetica o di struttura delle proteine, eccetera, eccetera. E questo ha permesso, a quanto pare, in una maniera che ancora mi risulta misteriosa, perché io l'ho visto, sono andato a rivedermelo e non l'ho ancora capito come hanno fatto, ma questo forse è anche normale, però di raggiungere dei risultati a quanto pare strabilianti. E quindi è bello che adesso questa... Scusami. Ma non avevo finito. No, quindi andate a vedere Lo and Behold di Werner Herzog. Va bene, adesso devo metterlo allora. Vai. Oh, molto meglio. No, questa è una cosa che faremo tra pochissimo, dopo le super mega galattiche pubblicità delle 7:30. Comunque, tu sei stata interrotta, non avevi finito, mi sembra, Oriana. No, dunque, è vero, volevo dire, in effetti, che nel 2012 che senso aveva riprendere il libro? E l'obiettivo era far evolvere e continuare la performance, quindi noi abbiamo ricevuto tantissimo nella possibilità di approcciare in questo modo, di anche cambiare il dialogo con la medicina. E vorrei sottolineare per i nostri coxo utenti, coxonauti, scusami, che noi non abbiamo mai abbandonato il dialogo con la medicina, è un messaggio che non fa parte della cura. Noi cercavamo un diverso modo di dialogare con i medici, con le persone che ci potessero aiutare in tantissimi modi. Questo è importante da dire sempre, cioè cerchiamo di dirlo sempre, perché è complicata. No, insomma, è molto importante, anche perché si rischia di confondere altrimenti il vostro messaggio e il vostro progetto con... Anzi, ne abbiamo incontrati di tanti e meravigliosi medici con cui però... Era possibile dialogare e questo era... Perché alla fine l'altra opportunità è quella di un broadcasting, tu ricevi il segnale dal medico senza poter rispondere. Esatto, e anche fondamentalmente quando abbiamo rimesso in moto la performance attraverso il libro, noi abbiamo sempre detto, c'è scritto nel... Sul libro vi sa che dobbiamo salutare Salvatore, che lo rimandiamo a fare tutto quello volevo che deve. Volevo aggiungere una cosa al volo, proprio su questo. Perché si tratta anche molto di più che dialogare, no? Perché diciamo uno dei problemi fondamentali è proprio la separazione, ma non perché per esempio anche adesso ci sono tante iniziative della cosiddetta e-health, del paziente digitale, no? Quindi questo supposto paziente partecipativo. Però diciamo non si va mai oltre il dialogo tra paziente e medico, no? E questo comunque è una limitazione pazzesca e diciamo senza senso, come è pazzesco e senza senso prendere una malattia come il cancro, no? E tutte le altre malattie e tutti gli altri problemi complessi che ci riguardano e affrontarlo nella separazione, perché comunque sempre ti stai riconducendo alla separazione, quindi che vede il paziente che dialoga con il medico, ma non si esce fuori da quello, no? Non c'è, la società scompare, perché sempre la società è soggetto passivo, in attesa di questa cosa, in attesa. Quindi non si tratta di solo, ovviamente importantissimo, ma non si tratta solo di far dialogare il paziente con il medico, si tratta di inventare modalità in cui sia l'intera società coinvolta, perché una malattia così particolare come il cancro, diciamo tutto quello che facciamo dalla mattina alla sera potenzialmente ha a che fare con il cancro, quindi come mangiamo, come ci spostiamo, come otteniamo energia, come consumiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non si può affrontare solo nell'ospedale, per quanto sia aperto il dialogo tra il medico e il paziente. Questi problemi complessi, e quindi non stiamo parlando solo della malattia, vanno affrontati nel mezzo della società. Quindi questo è il grande sforzo, e questo è quello che ci siamo sforzati, che per fortuna e con nostra meraviglia e gioia sta avvenendo nella cura. Ed è questo quello anche di cui continueremo poi a parlare nella seconda parte del programma. Rimanete con noi. Sono Paolo Assei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Arte contemporanea. Vi piacciono i nostri cingolini? Sì. Sono tutti fatti da Pasquinis, che è il mio co-conduttore storico, che forse tornerà, sfruttando i suoi figli. Giovane. Spremendoli. Nicolino, dimmi questa cosa. Sono anni che li tratta così. Comunque, a questo punto, noi siamo nella seconda parte della 147 puntata di Coxo Spaziale e tu ormai, che sei preparatissimo con conduttore Coxico, sai che cosa ti attende, dico oh, bene? No, oh no. Come no? Ma sì, sono le menzioni. L'angolo della menzione. Ecco. Ok, prima menzione. È in corso il crowdfunding per la realizzazione di L'Eterna Lotta, una commedia dello studio Indici Opponibili. Un uomo, un albero, un angolo di paradiso. Che pace. Sarebbe tutto perfetto. Perfetto. È che non ci sono più gli angoli di paradiso di una volta. A partire da qui, l'eterna lotta, di cui l'uomo e la natura saranno protagonisti di una commedia slapstick muta, degna erede dei cartoni animati di una volta. Sostiene la realizzazione di questo corto, scritto e diretto da Andrea Montuschi e interpretato dal bravissimo Diego Casale e dalla natura. Partecipare al crowdfunding è semplice e in più si vincono ricchi premi e cotillon. Ma quanto spettacolo è questo cococoxico, eh? E diamo anche il sito magari, www.eternalotta.it. No, questo devi dire, che devi dire il nostro sito, che vanno a vedersi su www.coxospaziali.blogspot.com. Da domani troverete tutti i link e i riferimenti. Questo volevo fartelo dire a te, perché so che ci tieni. Ah, ok, grazie, perché prego. Mi impappino ogni 3x2. Va bene, e poi che cosa abbiamo ancora qui con questa menzione? Abbiamo in linea un'ospite telefonica che si chiama Laura Epasto. C'è? Sì, sono. Evviva! Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, benvenuta ciao. Laura. Ciao, e Laura. Tu comunque, sei un indie... cosa prima ti prego. Di tutto. Sì. Che il cococoxico, cococoxico è bravissimo. Ma e io ho visto che quando ha messo il link della puntata, dell'ultima puntata sulla sua pagina Facebook, c'è proprio un tripudio di complimenti, like, wow. Non abbiamo, insomma, veramente. Va bene, comunque, tornando a noi, tu sei un indice opponibile, Laura. Certo, ho l'indice opponibile. Sì, sì, sono la persona che si occupa delle cose noiose all'interno di Indici Opponibili. E ricordiamo che Indici Opponibili sono stati conduttori occasionali del mese precedente a questo. Esattamente, esattamente. E Laura era qui in studio come ospite silente, come co-conduttore silente, faceva tutte le cose, vabbè. E a parte le telefoniche hai fatto tutto. In questa occasione volevo sapere, ma come sta andando questo progetto? Avete trovato le location? Siete pronti a partire? Allora, siamo quasi pronti a partire. Le location ne abbiamo un paio, ma non è facile, perché se poi andate a vedere sul sito la location che stiamo cercando, e anzi qui lancio anche un appello ai vostri coxi super mega ascoltatori, è un albero su un dolce crinale, ok? Ah. E ne abbiamo trovati un paio qui sui colli bolognesi, quindi comodi. Stiamo decidendo, ma se dovesse venire qualche altro input, noi siamo contenti e lo valutiamo sicuramente, perché non è facile, sembra, ma non lo è. Quindi chi partecipa al crowdfunding avrà il diritto ad ottenere fantastici premi personalizzati, dico bene? Assolutamente. Ma sì. Lanciamo anche questa opportunità, a seconda delle location che vi lanciano, altri premi saranno... No? Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì. Ah, chiaramente ci sono un po' di cosine molto carine, ci sarà una bellissima maglietta disegnata da Ludovica Mantovan che ha tutta una serie di cicale che sono molto carine, poi ci sarà sicuramente una video dedica di Diego Casale, questo uomo gigante, Barbuten, adorabile, Barbuten e Ricciolen, quindi perfetto. E quanti giorni ci sono ancora? Pochi, Pochi, mancano 7 giorni. Ok, una settimana. Beh, una magari settimana, ci sentiamo settimana prossima, così mi racconti come sta andando e se sono arrivate nuove possibilità di location, sì, da Alberi, dal nostro appello. Assolutamente sì, a quando volete. Allora, un caro saluto agli altri indici e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao. Ciao, buona trasmissione. E a questo punto io cosa devo fare? Devo mettere un branino per fare la seconda telefonatina. Mo sì, mo mettila pure. Va bene, vado. Bentornati in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Questo è sempre Coxo Spaziale e questo è sempre, vediamo se ce la faccio, l'angolo della menzione. Ce l'ho fatta, mi dispiace caro Luca. Sì, siamo alla seconda menzione. Devo farla sempre io, tu non fai più menzioni da quando sono qui io? Ma sei talmente bravo a farle che, no? Che dite, questi ragazzi? Questi elementi di retorica medievale per dire, ma voi siete così gentile che non possono. Ma insomma, andiamo con la seconda menzione della giornata. È online l'application form per partecipare alla quinta edizione di Setup Contemporary Art Fair 2017, la fiera d'arte contemporanea indipendente che si svolge a Bologna durante l'Art Week dal 27 al 29 gennaio 2017. Il tema guida della manifestazione sarà l'equilibrio e le candidature sono aperte fino al 30 novembre 2016. il link non lo legge perché da domani sarà www.coxospaziale.blogspot.com, lo trovate lì insieme al link per riascoltare questa super mega galattica puntata che si avvale anche della partecipazione delle socie fondatrici di Setup. Abbiamo infatti in diretta telefonica Alice Zannoni e Simona Gavioli. Alice, ciao, scusate, la conosciamo. Un bacio. Caramba, che sorpresa. Ah, carrambata, siamo qui. Sì. Ciao ragazzi, mi sentite bene? Ciao. Benissimo. Viva voce, mi sa che dovrà andarsene tra un pochino. Perché noi siamo qui con Oriana Persico. Un saluto. Ciao. Stiamo parlando di tutte le connessioni e le connessioni, gli incastri, gli incontri che insomma sono originate dalla cura, perché sapete che da domani a domenica c'è c'è il Festival della Cura a Bologna. Assolutamente sì. Eccole. Fantastico. E quindi connettiamoci ancora di più, anche il Coxo diventerà parte di questo hub. Coxo connesso. Coxo hub. Comunque, ragazze, grazie per essere qui e carrambate aside. Ritorniamo a parlare di Setup, che ritorna per la quinta edizione, questo mastodontico lavoro che state portando avanti per riqualificare anche le possibilità di fiera, una fiera che sia concentrata sul contemporaneo, sul giovane qui a Bologna e che sta andando sempre meglio. E quindi cosa ci raccontate per questa nuova edizione? Allora, che dire, innanzitutto già solo a pensare alla quinta edizione ti ringrazio per il riconoscimento del grande lavoro, perché effettivamente Simona e io abbiamo dato, penso, i 5 migliori anni della nostra vita. Detto questo, non a caso arriviamo al tema, che il tema guida di quest'anno sarà l'equilibrio, che nasce un po' per il fatto che insomma sia io che Simona ormai siamo diventate funambole in questa corda tesa che si chiama futuro. E però insomma, a parte questo dettaglio del tutto personale, abbiamo letto una citazione di Kierkegaard che ci è sembrata veramente appropriata, e dice: osare è perdere momentaneamente l'equilibrio, non osare è perdere se stessi. E il fatto proprio di questa... Non ho sentito bene la prima parte, scusa. Osare. Osare vuol dire perdere. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdere se stessi. Grazie. Quindi, sto pendendo dalle tue labbra perché ti sentiamo pianissimo da qui. Allora, guarda, tolgo il viva voce. Oh. Allora, per un attimo resto solo io. Mi sentite meglio? Sì, sì, molto sì. Meglio, grazie. Perfetto, bene. No, dicevo, lo ripeto per la terza volta o è abbastanza? No, l'abbiamo sentito e abbiamo sentito anche i sottotitoli tra un po' da parte di Fantastico. Luca. E vabbè, che dire, anche qui sul lato personale, sia mio di Simone, di quello che ci ha mosso rispetto all'iniziativa 5 anni fa, noi abbiamo osato, cioè abbiamo fatto una cosa che non esisteva prima e sul tessuto, vabbè, sia a livello nazionale, ma poi parlo nello specifico del locale, non era assolutamente facile insidiarsi ed essere collaterali ad una grande manifestazione. Detto questo, abbiamo capito in 4 edizioni passate che postare una fiera con un tema guida è una scommessa sia per noi che per gli espositori, che si divertono un sacco a dover affrontare questa sfida, perché quello che sappiamo che chiediamo è sempre di presentare un progetto curatoriale e ovviamente che lavora sul tema, quindi tante piccole mostre. Quest'anno saranno tante piccole mostre a tema equilibrio. Come tutti gli anni, la scelta del tema è sempre a maglia larga, quindi ci permette di individuare un equilibrio che può essere politico, sociale, economico, di genere, quindi insomma di avere una panoramica attraverso l'arte contemporanea di quello che è il tempo presente. E quindi parte la raccolta di delle proposte che renderanno reale la quinta edizione di Setup nel 2017. Quindi, assolutamente. E dal 30 sì, novembre, dal 30 novembre esatto. In poi sarete lì a scartabellare. Selezionare i progetti, e non vediamo l'ora, cioè è una delle parti più più belle di questo lavoro. E io ti ringrazio tantissimo e ti prego di ringraziare anche Simona, che purtroppo non siamo neanche, siamo solo riusciti a dirle ciao. Ci sentiamo. Guarda, più avanti. Faccio vari saluti in diretta da Simona. Ok. Ciao. Ciao Simona, grazie per essere stata qui con noi, anche se in modo così veloce. E ci sentiamo presto con le novità di setup, che tanto benissimo. Io lo so che anche se, cioè anche se dicono che è l'estate, le vacanze, sa da lavorare. No, no, ma noi stiamo già lavorando 18 ore al giorno, quindi perfetto. Ci sono tantissime di novità. Allora tornerò a rompervi le scatole molto presto. Grazie a tutte, benissimo, ragazze. Grazie ciao. Mille. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Wow, siamo in ritardissimo. Davvero? Ma sì, guarda che ore sono. Ma no, non è possibile, abbiamo un sacco di cose da dire ancora. Ne abbiamo una che ne contiene tantissime. Sì. Eh sì, te la dico io? Sì. La vuoi dire tu? Vai. Dall'8 al 10 luglio, la cura, il festival, complessi connessi indisciplinati a Kilowatt. Nasce a Bologna la prima edizione del festival generato dal progetto La Cura. Una 3 giorni di iniziative tra interconnessione, complessità e trasgressione per scoprire le forme di una bellezza che connette. L'ha scritto l'ufficio stampa, io sono letto. E adesso potremmo ritornare un attimino sulla questione del... adesso che sappiamo da dove viene la cura, sappiamo attraverso che forme è arrivato, che processi ha portato avanti, noi abbiamo la fortuna di avere qui il nostro altro ospite, che sin qui è stato abbastanza silente, che si chiama Tommaso Megale. Eccoci qua. Che è un esempio di come è nata una connessione che è diventata un qualcosa di ancora più ordalico. sto facendo pena rispetto a questo rubare parole a destra manca. Comunque è un esempio di come la cura ha cominciato ad agire nel mondo, a diffondersi, moltiplicarsi, a creare incontri e connessioni. Dico bene? Esatto, esatto. Cos'è successo? È successo che io, Oriana e Salvatore siamo amici da tanto tempo e negli ultimi mesi sono stato assunto nella scuola pubblica per insegnare alle scuole superiori. Ora, questo l'hai che detto guardandomi negli occhi come a dire io sì e tu no. Esatto. Ma questa esatto. È una cosa privata, sì, sì, nostra. Sì, che sì, cioè, sono le ingiustizie della vita. E, qui abbiamo parlato fondamentalmente di biopolitica. Adesso la dico io la parolaccia, biopolitica. La biopolitica che è legata a temi come la clinica, appunto, e la scuola, esatto, in questo caso. Esatto. E qui a parlare di biopolitica sono due professori fondamentalmente. Esatto. Uno è il professor Megale. Fondamentalmente stiamo parlando di corpi disciplinati attraverso dei codici. Quanto mi piace quando mi ci rifugio, mamma mia, quindi mi fondamentalmente come ciò avviene all'interno dell'ospedale e si formalizza questa figura del paziente che poi viene ripensata all'interno della cura di Salvatore Iaconessi e Oriana Persico. L'ORDA è un progetto scolastico che risponde a una necessità molto specifica, appunto anche questa in relazione ai codici che sono entrati in vigore ultimamente, nel senso che dopo essere varata è entrata in vigore la legge 107, buona scuola, che ha previsto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi molti studenti delle classi terze si sono trovati a dover accumulare orario in questo senso. Una delle risposte che è possibile dare da docenti a questa necessità è quella di realizzare un'impresa formativa simulata. Perfetto. Questa impresa formativa simulata questo progetto, diciamo che si proponeva di creare una rivista per la scuola. Sì. All'inizio cartacea, poi ci siamo spostati online, in questo momento è in costruzione un sito che è orda.website. Perfetto. Dove gli studenti piano piano durante l'estate stanno caricando i loro articoli. Cosa c'entra Orda con la cura, a parte quello che ho già detto? C'entra perché gli studenti ed io abbiamo incontrato Salvatore Oriana in due occasioni e abbiamo realizzato una performance urbana nell'ultimo dei nostri incontri. In quale città? A Pisa. A Pisa. Sì, stiamo benissimo parlando di cose fatte e successe. No, perché con questo accento così non si sarebbe mai pensato alla Toscana. Sì, sì, sì, sì, sì. stiamo parlando di Pisa. Di Pisa. Performance urbana, dunque? Una performance urbana in cui è stata offerta la possibilità alle persone che si trovavano presenti, erano venute, eccetera, di ripensare la famiglia. Come mai questo tema? Da dove nasce? Allora, questo tema emerge, anche questo in maniera totalmente imprevista, da una richiesta degli studenti. Ok. Quindi gli studenti hanno chiesto proprio di parlare di questo come tema del primo numero della rivista. Ma dimmi te, chi se lo sarebbe mai aspettato? Davvero. E in questo senso una cosa molto semplice ma di successo è stata quella di dare la possibilità alle persone di rifare il proprio ritratto di famiglia. Perfetto. Quindi sono state realizzate in tutto 22 fotoritratto, autoritratto, e in questo modo abbiamo utilizzato gli strumenti che Salvatore e Oriana ci hanno messo a disposizione, nel senso che abbiamo considerato un codice dentro cui spesso e volentieri ci sentiamo stretti, non ci riconosciamo, non, e ci siamo dati l'agio e la possibilità di ripensarlo insieme. E questo è stato l'esplosione di una serie di connessioni, perché hanno collaborato studenti del terzo anno con studenti del quarto anno, studenti dell'ordinario con studenti del serale, professori di materie diverse. Ci siamo mossi all'interno della città, siamo andati a visitare gallerie di persone che ci potevano aiutare per sviluppare il progetto, abbiamo attraversato anche altri spazi pubblici come Spazio Buono 19 per la realizzazione dell'evento e della performance. Quindi in pratica abbiamo fatto in piccolo quello che si sta svolgendo ai Giardini Margherita, insomma. E che si svolgerà dall'8 al 10 luglio. Scusate, esatto. Vorrei ricordare che Tommaso non è qui a caso, ma è perché appunto Orda è stato il primo esperimento di progetto di alternanza scuola-lavoro, con anche e soprattutto l'obiettivo di capire in che modo, anche per noi era stato molto interessante la modalità in cui lì stava svolgendo questa possibilità, chiamiamola così, no? Sì. Insomma, dell'alternanza, quindi interconnettendo classi, interconnettendo professori, cercando un dialogo con la città. Allora, l'obiettivo in questo caso qual è? Capire in che modo l'approccio interconnettivo della cura può essere in questo caso applicato alla scuola. E qui capiamo il moto che dal 2012, cioè la cura applicata al cancro, ci porta nel 2016, in cui la cura diventa un approccio che tentiamo insieme agli altri di sperimentare in nuovi contesti. E poi cosa succede? Succede che l'Orda è al festival in due modalità. Esatto, le due modalità sono una mostra in cui facciamo vedere le foto che abbiamo realizzato nell'occasione del 25, Near Future Family Portrait, e poi un lab in cui spiegheremo che cosa abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto, e quindi veniteci a trovare. Una specie di parte manifesto, il manifesto. Ma parla al plurale, perché lui, nemmeno lui è il centro della classe. No, ormai assolutamente. No, ci sono i ragazzi. Cioè, ci sono i ragazzi che vengono a parlare. Cioè, l'Orda è arrivata davvero da Pisa. Io mi sono presentato come una scheggia impazzita proprio perché sono una scheggia impazzita, cioè una parte di cui si potrebbe fare almeno, verosimilmente. Beh, non quindi... è del tutto vero, però, perché se tu non avessi dato anche soltanto l'input, questa cosa non si sarebbe fatta, come anche Salvatore se non avesse ci dato lui. Ci sono dei varchi che si aprono e poi però il performare qualcuno, però, no, qualcuno, cioè, però li deve aprire, non, e non siamo mai da non soli ti, però, non insomma, ti buttare totalmente giù, hai, no, avuto, no, hai no, ancora un ruolo anche tu. Posso intervenire in modo inaspettato? Oh, no, no, no. Sì, dai, Salvatore, abbiamo fatto la sorpresa. Fantastico. No, perché diciamo questa cosa del diciamo dell'intervento è molto importante, no? Quindi se non ci fosse stato l'intervento, l'input, la sollecitazione, non sarebbe avvenuto. Questo è molto vero, però diciamo per esempio letto in chiave di come si sta evolvendo la figura dell'artista, per esempio, no? Questo è molto importante. Perché se pensiamo a una performance d'arte molto famosa, i 4 minuti e 33 di John Cage, no? Quindi questa performance in cui John Cage arrivava in una sala da concerti con tutte le persone arrivate a sentire il concerto di pianoforte eccetera eccetera, si siede, no, alla tastiera del pianoforte, alza il coperchio dei tasti e non fa assolutamente nulla per 4 minuti e 33 secondi, no? E cosa succede? Succede che stravolge il ruolo dell'artista, no? Stravolge il ruolo dell'artista, perché il ruolo dell'artista diventa quello di creare piattaforme per l'espressione di altri, no? Perché in quel caso, visto che per 4 minuti e 33 secondi non fa nulla l'artista, in quel caso il concerto lo fanno tutti gli altri, tutti i presenti, no? Tutti i presenti, chi tossendo, chi gli squilla il cellulare, chi dice al suo compagno di poltrona: ma quando inizia la musica? Quello che va al bagno, quello che... tutti collaborativamente, volenti o nolenti, fanno a tutti gli effetti il concerto, no? E questo è importantissimo, perché è un ruolo importantissimo che nasce nell'arte, ma potrebbe essere ereditato da tante figure, dai professori, dai governanti, da tante persone, dai medici stessi, no? Ok, quindi il fatto che colui che dà lo stimolo, coloro che danno lo stimolo, in realtà danno uno stimolo molto particolare, perché di fatto creano una piattaforma per l'espressione di altri. Al punto che domenica uno dei near future del festival è dedicato a un tema peculiare, che è il supereroe interconnettivo. Ne parliamo con gli amici del cantiere di SMS, che è uno dei temi che cerchiamo di sviluppare nel festival. Sai perché mi piacciono questi ospiti? Fanno tutto da soli. Io mi sembra di non aver detto niente oggi, e di fatto è così. Fanno tutto loro, fantastici. Si sono connessi alla conduzione coxofonica. Sì, si sono praticamente diramati, qui hanno preso la prossima settimana e saranno quindi... loro. A te ti terrei, cioè, te, insomma, ti terrei, ti terrei per tutto il tempo possibile, però loro mi sa che, beh, perché non venite in agosto? No, comunque, non mi distraete, io adesso devo mandare le pubblicità in fortissimo ritardo, ve lo dico, siete i primi con i quali io abbia mai ritardato con le pubblicità. Questo veramente... Potete andare orgogliosi di questo. Sì, esatto. È vero. È verissimo, io austro-ungarica sono. Va bene, e quindi adesso vado col jingle, vi saluto tutti, grazie Salvatore per essere stato qui, ci vediamo con grazie a voi. Ci vediamo con tutti i nostri ospiti da domani a domenica alle Sare dei Giardini Margherita, e col nostro Coco Coxo occasionale forse giovedì prossimo, se ci ritorna. Forse giovedì prossimo. Una cosa fantastica è che in tutti questi momenti in cui stiamo parlando della cura e del festival riusciamo sempre pochissimo a parlare del programma. Ed è una cosa meravigliosa per me, perché è più importante quasi cosa è e come è nato, anche se il programma francamente è molto bello ed è tutto gratuito, se lo possiamo ricordare. Sì, ed è anche molto molto molto bella la grafica, assolutamente. Ti sì, fa venire una ti disseta, andate a guardare e cercate di capire che cosa vi ricorda, e vincerete ricchi premi e cotillon. Va bene, è proprio tardissimo, mi licenzieranno dopo questo Cox, è stato bello e ho pianto tanto. Ciao.